9 in punto, la versione di Oscar. Of all elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. Cari ascoltatori di Radio 24, da Oscar Giannino cominciamo anche questa settimana tenendo in apertura e in chiusura The End e Doors, e lo facciamo perché, lo sapete, gli spread stanno scendendo e tutti noi dobbiamo essere solidali con questo sforzo di serietà nazionale che contribuisce anche ad alcuni chiarimenti nell'euroarea, per spingere la crisi della sostenibilità dei debiti europei verso un punto meno critico. Però in realtà la nostra convinzione è che siamo lontani dall'aver raggiunto ancora il punto di non pericolo, e fino a quel momento noi terremo questa musica, per così dire, contributo di consapevolezza. Oggi ci occupiamo di un tema e di un libro in particolare. Questo tema è il rapporto complicato della Chiesa Cattolica Italiana con la modernità, e lo facciamo perché c'è un libro che trovate che sta andando molto bene nelle vendite, nelle librerie. Il titolo del libro è La Chiesa Contro, e Longanesi editore. Il sottotitolo esplicativo è Dalla sessualità all'eutanasia, tutti i no all'Europa moderna. E i due autori declinano questo tema dividendoselo in due parti. C'è una prima parte che ho trovato straordinariamente utile a tutti coloro che magari non hanno la storia italiana nel quadro del rapporto di come gli stati europei, non solo lo stato italiano una volta nato, si trovò ad affrontare la questione romana. La verità è che la nascita dello Stato moderno in tutta Europa, in tutti i paesi avanzati, in realtà compresi gli Stati Uniti, ha comportato un rapporto dialettico più o meno problematico, risolto in maniera diversa nel rapporto tra laicismo dello Stato, laicità dello Stato, laicismo è un'espressione che viene usata per criticare, e ambiti delimitati dagli ordinamenti e dalle leggi in cui la Chiesa Cattolica, ma le Chiese in generale, interagiscono con gli ordinamenti e gli stati e provano a influenzarne diversamente per storia e cultura, ovviamente, le evoluzioni. E questa è la prima parte. C'è una seconda parte che fotografa, per così dire, con il piglio del reportage, come diversi paesi avanzati si comportano rispetto a questi due filoni, a questi due temi che vengono individuati come i temi che nel mondo di oggi continuano a rappresentare il problema dialettico tra la Chiesa e la modernità. E questi due temi sono in particolare l'evoluzione della sessualità e i temi della bioetica. I due autori di questo libro con cui parleremo sono, per la prima parte, l'ambasciatore Sergio Romano, che da anni ci illumina sul Corriere della Sera, non solo una sua rubrica sulle lettere, ma con dei saggi in cui la sua grande e strepitosa passione nell'interpretazione della politica internazionale trova fondamento nella storia diplomatica. E la seconda parte del libro è invece di Beda Romano, che noi del gruppo Sole 24 Ore conosciamo bene, che da anni ci illumina proprio su quei paesi verso i quali siamo più diffidenti perché sono più virtuosi, quelli nord europei. Ora, prima di parlare con loro, i consueti due minuti di aggiornamento di quello che ci ha colpito sulla stampa internazionale in relazione esattamente alla crisi dell'eurodebito. Le prime segnalazioni sono inevitabilmente per il punto su cui si accentra l'attenzione di tutta la comunità internazionale: la trattativa dell'ERCAT, del taglio dei capelli, della compartecipazione al valore del debito pubblico greco. Tanto per cambiare, per l'ennesima volta, dopo settimane, anzi due mesi, in cui ci viene annunciato che l'accordo è vicino tra Grecia e detentori del suo debito pubblico, non c'è stato neanche ieri l'accordo, e quindi i mercati stamattina aprono male. Per questo tutti i giornali greci, Katemerini e tutti gli altri che vi cito abitualmente, aprono e dedicano pagine e pagine alle richieste di austerità aggiuntiva chieste dalla Troica, che nella maggioranza di governo greco non si riesce a concordare. Ieri intervistato a Der Spiegel, Jean-Claude Juncker ha detto per la prima volta che le possibilità di un default sovrano della Grecia non possono essere escluse se la maggioranza politica greca non capisce che non si tratta solo di richieste recessive e aggiuntive, ma di un cammino percorribile sostenibile, anche in presenza di un calo economico così pesante per la Grecia, di riduzione del suo debito pubblico. Però il punto è aperto e resta molto delicato. Io ricordo a tutti che in Grecia ci si è assunti l'impegno poi di tornare nuovamente alle urne, quindi è ovvio che la politica si debba fare i conti con grande attenzione su come poi gli elettori greci si comporteranno. Secondo punto di attenzione europea è senza dubbio il meeting franco-tedesco che si svolge oggi e il sostegno di Angela Merkel alla campagna elettorale del presidente francese. Si vota il 22 aprile, ricordo a tutti. Incertezza sui giornali francesi su come questo sostegno in realtà si potrà tradurre nei confronti della posizione pericolante del presidente francese. Per quello che ci riguarda noi, al di là della vicenda francese, ricordo che oggi verrà presentato a Merkel e Sarkozy una specie di libro bianco su le proposte di convergenza fiscale tra franco-tedeschi. La notizia la prendo dall'Eseco e sono 5 questi ambiti di convergenza secondo l'Eseco, e il punto di partenza è quello di non accrescere l'imposizione fiscale sulle aziende. Non sapevo, quindi ammetto la mia ignoranza, la ricavo dal giornale di Dimanche che ho letto ieri, che esiste un'ipotesi che Marine Le Pen non venga ammessa in realtà alle elezioni francesi. Questo potrebbe cambiare significativamente, drammaticamente la prospettiva delle elezioni, perché in quel caso tutti i sondaggi condotti fino a questo momento si rivelerebbero sbagliati e le possibilità di elezione di Sarkozy si accrescerebbero molto, perché c'è ancora un sì formale per la candidatura di Marine Le Pen che deve essere superato, ed è quello relativo alle 500 firme di amministratori eletti. Se fosse questo il tetto individuato per la sua soglia di ammissione ufficiale, siccome lei ne ha 350 solo, lei non potrebbe candidarsi alle elezioni e allora tutto cambierebbe in effetti. Quindi a quel punto al secondo turno Sarkozy avrebbe la certezza di arrivare e lì potrebbe cambiare veramente, veramente tutto. Ecco, io mi fermo esclusivamente qui, tranne un'ultima notazione. Mi è piaciuto molto sul Financial Times la column di Wolfgang Munchau, che affronta un tema apparentemente eterodosso: se la Germania si consideri ormai nella sua classe dirigente un paese emergente invece che l'euro. La risposta di Wolfgang Munchau è che in realtà questa tesi quant'anche affascinante in caso di rottura dell'euro è infondata. La Germania deve la sua forza all'evoluzione del suo sistema in sistemi di cambio sempre fissi, molto più che fluttuanti, come sono quelli del più dei paesi BRIC, e quindi strutturalmente la Germania è l'opposto di un paese BRIC. Questo è un messaggio per classe dirigente tedesca che dovesse pensare con leggerezza alla rottura dell'euro. Fine della parentesi sull'euro, torniamo al libro di oggi. Intanto ci sono i due autori che entrambi ringrazio e saluto per essere con noi fino alle 10. Quindi buongiorno all'ambasciatore Sergio Romano. Buongiorno. E buongiorno a Beda Romano. Buongiorno. Allora, io comincerei con lei, ambasciatore, perché ho trovato incardinato in questo quadro di lettura storica dei rapporti tra Chiesa e Stato unitario, Stato moderno italiano, la sua chiave che ci ripropone spesso sul fatto che in realtà qui c'è una ragione di lungo periodo, ma è una ragione che ha a che fare con la politica, non è una ragione verso la quale bisogna arrendersi fatalisticamente. Lei, la sua idea è che c'è una ragione storica, sì, ma c'è anche proprio nella politica italiana qualche cosa che non ci riesce a far arrivare a paletti tra Stato e Chiesa simili a quelli di tanti altri paesi europei di tradizione cattolica non meno forte della nostra, si pensi solo alla Francia. Come immagina che evolverà questo rapporto? Per il momento non bene, devo dire che quello che è accaduto in questi ultimi anni non è rassicurante. Si ha in qualche modo l'impressione che l'Italia non riesca a diventare uno Stato laico, non lo è stata neppure durante il fascismo, che pure teorizzava il primato dello Stato sulla Chiesa, il primato dello Stato su tutto. In realtà il suo Stato era uno Stato etico, quindi per definizione uno Stato che non poteva lasciare che alla Chiesa che è uno spazio marginale, eppure i patti lateranensi, il concordato del 1929 hanno fatto dell'Italia per molti aspetti una sorta di condominio. Non dimentichiamo poi che la Democrazia Cristiana è stata il braccio della Chiesa nella società italiana, certo con grande intelligenza in alcuni momenti, con una capacità di autonomia che è stata certamente lodabile, ma non dimentichiamo che nel 1946-47 fino alla Costituzione del 1948, quando si discutevano gli articoli della Costituzione, un gruppetto di democristiani andava in Vaticano, se non ogni giorno, ogni settimana, a discutere gli articoli della Costituzione, vale a dire la posizione che avrebbe dovuto assumere la Democrazia Cristiana su determinati punti della Costituzione italiana, e questa non è indipendenza politica, non lo è mai stata. E allora adesso poi, quando pensavamo che in qualche modo la crisi del 1992, Tangentopoli, una nuova Repubblica, tutto questo avesse potuto fare emergere delle forze laiche nella società italiana, scopriamo che il Partito Liberale, così come era stato definito dal suo fondatore, vale a dire da Berlusconi, è in realtà una reincarnazione della Democrazia Cristiana. Nella sua ricostruzione, Italia in parallelo rispetto a questo tema nella storia di altri paesi europei, lei è molto severo, documenti alla mano, nel susseguirsi dei papi nel Novecento, di impostazione e tradizione diplomatica piuttosto che pastore. La via prevalente, quella degli accordi dovunque possibile, con i margini possibili in ciascun paese, è la via che poi spinge, per esempio, in Italia ad abbandonare Don Sturzo e a indurlo a lasciare l'Italia rispetto al fascismo. Rispetto a, diciamo, l'impostazione politica e concordataria nel tentativo di avere margini di influenza residua diversi da paese a paese, e rispetto ai pochi papi pastori, per così dire, rispetto a quelli diplomatici, il Benedetto XVI, il papa teologo attuale, in quale delle due tradizioni sta? Ma sembra essere per l'appunto nella tradizione del Papa teologo, che non è necessariamente il Papa diplomatico, forse anche perché la situazione è cambiata. Non dimentichiamo che il Papa diplomatico è caratteristico di un'epoca in cui la Chiesa è minacciata dagli Stati, non come oggi dalle teorie, dall'evoluzione della sessualità, dalla bioetica. Nell'epoca molto lunga, peraltro, in cui la Chiesa è stata minacciata dagli Stati, dal nazismo, dal comunismo, dall'Unione Sovietica, a questo punto era persino comprensibile che al vertice della Chiesa vi fosse qualcuno che si sapeva giostrare. Pio XI, rispetto a Pio XII, ebbe una posizione molto più severa sul nazismo, ma non dimentichiamo che anche lui veniva dalla diplomazia, era stato nunzio a Varsavia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi non è più così, la minaccia non viene più dagli Stati, la Chiesa, certo i suoi rapporti con la Cina non possono essere quelli che ha con gli Stati Uniti, ma non mi sembra che la Chiesa oggi sia sotto schiaffo nel rapporto interstatale. La Chiesa è minacciata, o si sente minacciata, da altre cose, e quindi ha al suo vertice un Papa che teorizza il diritto della Chiesa a mantenere fermi i principi della propria fede, della propria verità, e questo è per l'appunto Benedetto XVI. La domanda che le faccio, che è un po' anche di passaggio alla seconda parte del tema che viene sviscerato nel libro, quello appunto di come su sessualità e bioetica di paese in paese muti l'ambito del confronto tra Chiesa o Chiese, meglio, e ordinamenti positivi. Lei nella fine della prima parte del libro che ha scritto fa un'affermazione che da questo punto di vista è molto secca, cioè l'affermazione che mi ha molto colpito è: quando un essere umano, leggo, desidera fare, grazie al progresso scientifico, ciò che in altri tempi non era possibile, ebbene, se la sua azione non limita i diritti dei suoi simili, might is right, vale a dire che si può fare ed è giusto farlo. So che la Chiesa non potrà mai concordare con questa affermazione, ma lo Stato laico ha altri obblighi e doveri. Ecco, la cosa che le chiedo, ambasciatore, un conto, ed era il motivo della perplessità quando ho visto anticipare il volume, poi l'ho letto, mi è passato ovviamente il dubbio, ma lo dico per chi a casa potesse pensare che questo è un volume che nasce dalla, per così dire, premessa quasi intenzionale di aggiungere un capitolo alla guerra tra due campi, quello è il nome dei laici contro le pretese dei cattolici. Qui la scelta è molto secca, cioè si dice c'è una storia di continuità, come la Chiesa Cattolica si è impegnata per secoli a tentare di limitare i danni della restrizione e poi dell'annullamento della sua sfera temporale di fronte alle diverse pretese che gli stati hanno messo in campo, come diceva lei, quando gli stati sono arrivati addirittura a mettere in questione, insomma, il fondamento stesso poi di alcuni diritti elementari della Chiesa, però c'è una linea di continuità assoluta tra quella contesa storica e quella che si apre in termini di filosofia del diritto, dove lo Stato non può assolutamente tenere in soverchio conto le posizioni della Chiesa Cattolica, e qui entriamo appunto soprattutto nella disciplina della famiglia, della sua evoluzione per il riflesso della morale sessuale e poi nell'enorme, importantissimo campo della bioetica. Questa continuità diretta che lei fa tra prerogative Stato e Chiesa dai tempi della lotta delle investiture alle questioni della sessualità e della bioetica, non pensa che messa così in una specie di evoluzione lineare possa proprio per questa continuità non convincere alcuni che sono in buona fede convinti invece dei precetti che la Chiesa Cattolica dà nell'ambito sessuale e in quello etico, bioetico? Ah, certamente, è molto probabile e lo constato ogni giorno. Vi sono persone che fanno quadrato in questo momento intorno alla Chiesa e questo in un certo senso conferma quanto il passaggio sia cruciale per la Chiesa. La Chiesa si sente forse più minacciata dalla rivoluzione bioetica e dalla rivoluzione sessuale di quanto non sia stata, paradossalmente, che so dire, dal comunismo. Tant'è vero, tra l'altro, che all'interno della stessa Chiesa simpatie per il comunismo o comunque comprensioni e giustificazioni per il comunismo esistevano. Oggi invece mi sembra che comprensione e giustificazione per i diritti a valersi di ciò che la tecnologia consente ve ne siano molto o meno. Vede, il problema è che in questo caso bisogna pur rendersene conto, bisogna pur cercare di comprendere le ragioni della Chiesa, altrimenti rischiamo veramente di non essere neppur giusti nella valutazione di ciò che sta accadendo. Per la Chiesa è in gioco la famiglia. In altri tempi era in gioco il suo potere temporale, la sua capacità di influire sulla società politica, tante cose a cui si può anche prima o dopo rinunciare. Ma quando è in gioco la famiglia, allora la Chiesa ha uno scatto, come dire, di resistenza a oltranza. Perché? Ma perché la famiglia è la cinghia di trasmissione dei valori della Chiesa. Se non c'è famiglia, se questa famiglia è in qualche modo snaturata, uso un'espressione che userebbe naturalmente la Chiesa in queste circostanze, questa Chiesa, questa famiglia non è più in grado di trasmettere alle generazioni successive i valori della Chiesa. La famiglia è stata il grande attendente dell'ufficiale Chiesa, del generale Chiesa. Senza la famiglia nulla è possibile, o quantomeno tutto diventa molto più difficile e superficiale. Sa, io devo ammettere, siccome lei è molto netto e rigoroso e cartesiano quando scrive e quando parla, io che sono nato in una cultura fortemente laica, repubblicana, naturazionista, piena di giudizi che sono quelli a cui si ispira il suo volume, ma ancora più duri, più pesanti, perché c'è l'ascendenza risorgimentale, era molto forte nella mia formazione e così via, mi sono chiesto a un certo punto se la sacrosanta battaglia storica per affermare la separazione, l'autonomia, la piena indipendenza dell'ordinamento statuale italiano nei confronti di alcuni punti che riguardano appunto la tradizione, che hai chiaramente, mi sembra un punto fondamentale per tenere in piedi le società e quindi compresa l'importanza della famiglia, il preservarne alcune sue caratteristiche di fondo, per così dire, andassero davvero di pari passi o non li dovessi scindere, nel mio giudizio. E da questo punto di vista io ammetto che la maniera così tagliente in cui lei ragiona per me è un motivo di riflessione molto profondo. Io voglio dire a chiunque è a casa e ci ascolta, convinto invece o che abbia l'impressione che questo libro di Romano Padre e Figlio sia la riproposizione di una specie di attacco a testa bassa del laicismo, chiesa vai nell'angolo e stai zitto, non credo proprio che si tratti di questo. A me ha fortemente fatto grattare la testa in alcuni passaggi. Ora noi andiamo in pubblicità, ripartiamo con Beda Romano, perché Beda Romano conclude la parte della sua sinossi su come sta la legislazione e l'evoluzione in materia sessuale, in materia di bioetica, con una pagina anch'essa dedicata all'Italia. Io di lì vorrei partire, perché le conclusioni di Beda mi hanno fatto riflettere, insieme a quelle di Sergio Romano, ma ancora di più, perché sono conclusioni, come vedrete, che non portano acqua a una specie di guerra civile culturale. Qui la questione non è di reimmaginare una guerra politica come quella che tentò di animare il cancelliere Bismarck. I tempi sono diversi. Certo, di riflettere però sul perché tanti italiani debbano andare all'estero per cose che riguardano la ricerca su cellule staminali o la possibilità di esaurire una legittima aspirazione ad avere un figlio. Ecco, questi sono temi sui quali bisogna continuare a riflettere. Eccoci qua in studio, siamo tornati e stiamo parlando di questo libro edito da Longanesi. Il titolo è La Chiesa contro. Gli autori sono con noi, sono Sergio Romano e Beda Romano. Dalla sessualità all'eutanasia, tutti no all'Europa moderna. Ecco, nella seconda parte del libro si esaminano in maniera comparata l'evoluzione, i fondamenti del perché siano così mutati delle legislazioni nei diversi paesi europei su temi delicatissimi che riguardano da una parte appunto la sessualità, la famiglia, il dibattito anche interno e collaterale alla Chiesa intorno a temi come la partecipazione femminile l'esclusione all'ordinazione sacerdotale, il matrimonio dei sacerdoti, ma poi tutti i temi della bioetica che sono da decenni uno dei punti fondamentali su cui ci si interroga, e ci si interroga esattamente sul punto su cui l'ambasciatore Sergio Romano concludeva, che ho citato la prima parte del libro, quello del Might is Right, che a me interroga molto, perché io ritengo che si debba stare molto molto guardinghi, sia pure essendo anch'io da critico ma attivo nella campagna referendaria quando ci fu il referendum per tentare di scardinare alcuni dei limiti della legge 40 sull'inseminazione artificiale e sulla ricerca sulle staminali, sia anch'io molto critico su questi ultimi anni in cui la teologia cattolica è diventata ontologista e biologista, cosa che federa la lettura di San Tommaso a me sembra un pochino singolare, per così dire. Ecco, Beda Romano ci fa vedere come la realtà dei paesi europei sia molto singolare, perché ancora oggi noi abbiamo paesi europei in cui ci sono chiese di Stato, e come no, se ci sono. In Gran Bretagna la regina è capo di una chiesa di Stato, in Grecia la Costituzione si appella alla Santa Trinità consustanziale, indivisibile, quindi la chiesa greco-ortodossa è ben preminente, ma anche in Finlandia la chiesa evangelica luterana è ausiliare dello Stato, e in Danimarca idem, la chiesa protestante luterana gestita da un ministro del governo. Poi c'è un secondo modello, quello tedesco, quello italiano, sistema concordatario, dove esistono chiaramente culti, sia pure nell'ambito di una disciplina generale aperta a tutti quelli riconosciuti, in cui diciamo, la graduazione dei diritti e delle facoltà riconosciute dallo Stato dipende dalla profondità dei riconoscimenti avvenuti nella storia, quindi rispetto alle chiese cattoliche, rispetto alle chiese cattoliche e protestanti in Germania. Il terzo modello è ovviamente quello della laicità piena, quella in Francia raggiunta subito dopo il caso Dreyfus nel 1905, e che poi via via ha visto paesi che avevano storie di conflitti da risolvere in maniera neutra da parte dello Stato, come l'Olanda unirsi al modello francese, e come la Svezia, che ci si è avvicinata molto più recentemente, e come il Belgio. Tuttavia, dice Beda Romano alla fine di questa cavalcata nei diversi ordinamenti in materia, appunto, come l'eutanasia o la diversa regolamentazione della contribuzione attiva o passiva alla fine di una vita, e così via, e ci ricorda che in realtà non è che esista un modello europeo. Scrive, prima di arrivare alla conclusione che voglio citarvi per ripartire con lui sulla riflessione congiunta, nessuno dei paesi europei affronta il progresso scientifico, l'evoluzione dei costumi senza dubbi e ripensamenti. La Danimarca è liberale quando si tratta di inseminazione artificiale, assai più conservatrice quando discute di aborto. La Svizzera autorizza l'eutanasia. E qui a tutti richiamo, ci sono pagine in cui si spiega l'articolo 142 del codice penale svizzero e la sua storia, che è quella che consente appunto l'eutanasia in Svizzera, vale la pena di leggere. La Svizzera autorizza l'eutanasia ma rifiuta la clonazione terapeutica. La Gran Bretagna, prosegue Beda Romano, viceversa non esita a clonare le pecore ma respinge decisamente il suicidio assistito. Ogni paese insomma ha per motivi storici o sociali sensibilità diverse, e nessuno è moderno tutt' azimut. In generale Germania e Francia appaiono alla ricerca di una via mediana rispetto ai loro vicini, perché più di altri paesi sono gli eredi del sacro romano impero. Ecco, ma però, conclude Beda Romano alla fine di questo paragone sinottico, non vorrei che la tendenza ad attribuire soltanto all'influenza del Vaticano le scelte, o meglio le non scelte italiane nelle molte questioni etiche innescate dal progresso scientifico, nasconde in realtà una nuova menzogna nazionale. La mancanza di un esame di coscienza che faccia il punto non solo sui rapporti tra Stato e Chiesa, su Chiesa, ma anche sul ritardo di un paese attraversato da una vena gerontocratica e corporativa, dove la difesa delle rendite di posizione inquina non solo il funzionamento trasparente dell'economia di mercato, ma più in generale il modo in cui il paese dibatte del presente e del futuro. In altre parole, Beda Romano conclude dicendo: qui la colpa non è che possiamo additare il Vaticano, è che manca una borghesia italiana moderna vera per dare spina dorsale allo Stato moderno italiano vero. È così, Beda Romano? Direi di sì. Facendo questo giro dell'Europa ho potuto in realtà incontrare molte persone ed erano per gran parte rappresentanti delle borghesie nazionali, in Francia, in Danimarca, in Svizzera, anche in Spagna o in Gran Bretagna, e ho avuto sempre l'impressione che avessero un proprio modello e dei propri valori. In Italia la mia impressione è che la borghesia non abbia un proprio modello e dei propri valori, ma che in realtà abbia per certi versi preso i modelli altrui e soprattutto i modelli della Chiesa, con il risultato che se la borghesia italiana non si affranca, per così dire, dalla Chiesa e dalla cultura cattolica, rischia di essere appiattita e di non avere un proprio punto di riferimento. Quando approfondisce il dibattito aperto all'interno della Chiesa cattolica e dei movimenti collaterali cattolici tedeschi, spiega che vi è una compartecipazione, oramai un dibattito pluridecennale intorno ad alcuni temi che sono intorno a come la Chiesa organizza tradizionalmente la sua catena gerarchica. Uno di questi è naturalmente il celibato, che è un dogma, per modo di dire, visto che codificato nella storia da concili molto, molto più tardi, e non sta ovviamente nei Vangeli. Se dovesse paragonare da osservatore, Beda, quello che ha visto e documenta in paesi come la Germania su questo rispetto a ciò che si legge e si sente nel mondo ecclesiale cattolico italiano, che confronto ne verrebbe? Ma la Germania è un paese molto particolare in Europa. È un paese molto particolare perché è un paese, prima di tutto, dove vi sono due religioni che si affrontano giorno per giorno, da una parte il cattolicesimo e dall'altra parte il protestantesimo. Le due religioni hanno più o meno la stessa forza politica e quasi lo stesso numero di iscritti, circa 25 milioni ciascuno, ed è un confronto permanente. In qualsiasi città tedesca ci sarà la Chiesa Cattolica e il Tempio Protestante, ed è inevitabile che il confronto avvenga anche su piccoli fatti quotidiani, feste religiose, abitudini e via di seguito. Questo inevitabilmente comporta una concorrenza, per così dire, fra due etiche religiose, anche se appartengono naturalmente tutte e due alla grande famiglia cristiana. Per riprendere la sua prima domanda, la mia impressione è che questa concorrenza fra etiche religiose in Italia inevitabilmente è mancata, con il risultato che l'unica etica religiosa che è stata molto presente in questo paese è stata quella cattolica. Non è così in molti altri paesi europei. La Francia, per esempio, che naturalmente consideriamo un paese molto vicino all'Italia e che ha una forte componente cattolica, certo è un paese laico, ma è un paese dove il confronto tra le religioni è molto molto forte. Non dimentichiamoci che c'è stata prima di tutto una guerra di religione fra protestanti e cattolici, e poi oggigiorno la comunità protestante rimane molto forte, vi è una comunità ebraica e mi sembra di poter dire che la comunità islamica è sempre più influente nella vita politica di tutti i giorni. Ambasciatore Romano, però proprio lei ricorda che in definitiva i primi dubbiosi critici a lungo per una presenza politica dei cattolici, per questa influenza politica molto forte che c'è nelle ceti dirigenti della Democrazia Cristiana e per la radice anche cattolica e cristiana dell'antifascismo come eredità del Partito Popolare, lei stesso non fa altro che ricordare nel libro ciò che è storicamente oggettivo, cioè la perplessità in Vaticano di fronte a una presenza diretta dei cattolici in politica. In realtà la classe dirigente che aveva creato questo paese nel bene e nel male, come era possibile crearlo in Italia, ma con un forte taglio di separazione tra Stato e Chiesa, la destra storica c'era, le leggi Siccardi, la confisca dei beni ecclesiastici e così via. Poi è stato uno sviluppo della storia più che una decisione del Vaticano a portarci a questa presenza e a questa influenza così forte nella politica, o no, ambasciatore? Nella Chiesa c'è sempre stato un dibattito, siamo più potenti e importanti quando non siamo direttamente coinvolti nella lotta politica o dobbiamo lasciarci coinvolgere nella lotta politica per meglio orientare nel senso da noi desiderato la politica del Paese? Questo è un dibattito che continua, direi ogni giorno, all'interno della Chiesa Cattolica Italiana, non hanno mai smesso di discutere e vi sono momenti naturalmente in cui la Chiesa decide che è meglio non lasciarsi coinvolgere, perché lasciarsi coinvolgere significa inevitabilmente una inevitabile tendenza al compromesso. Ricordi quello che è accaduto in materia di divorzio e aborto in Italia. A un certo punto la Democrazia Cristiana si è vista costretta ad accettare, se voleva continuare a conservare il potere nella cosiddetta Prima Repubblica, doveva pur piegarsi alla volontà dei cittadini, alla volontà del Parlamento. E questo è stato vissuto dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa, come una costrizione, come un difetto fondamentale delle scelte fatte a suo tempo. E ha certamente rafforzato quel gruppo all'interno della Chiesa che riteneva il coinvolgimento pericoloso e da evitare a tutti i costi. E guardi che quella tendenza ha per certi aspetti prevalso dopo la morte della Democrazia Cristiana all'inizio degli anni 90. C'è stata una fase in cui una parte consistente della Chiesa ha di fatto accettato con una certa positivamente, per così dire, l'idea che non ci fosse un partito cattolico, che la Chiesa non dovesse lasciarsi coinvolgere dalle sue decisioni. Ma adesso che cosa sta succedendo? Non lo so, ho l'impressione che la Chiesa in questo momento sia abbastanza contenta con ciò che ha, un PDL che, come dicevo, è la reincarnazione della Democrazia Cristiana, deve naturalmente interrogarsi sul futuro di questo PDL. Non è affatto certo che questo partito resista alla fine della vita politica del suo fondatore, e allora prima o dopo si porrà esattamente lo stesso problema: siamo più potenti dentro o più potenti fuori? Ecco, io devo dire la verità che ammetto i limiti miei di osservatore, mentre negli anni quelli nei quali l'ambasciatore Romano dice caduto la prima repubblica, il ruolo della democrazia cristiana, la chiesa italiana, la CEI, con Monsignor Ruini, con sua eminenza Ruini, era sembrata interpretare il bipolarismo al maggioritario, meglio addirittura della politica italiana, tant'è vero che tornando a inseminare il dibattito politico trasversalmente dei temi che stanno a cuore, esattamente questa è la bioetica, a cominciare da quelli alla Chiesa Cattolica, inseminando trasversalmente, ha ottenuto anche leggi come la legge 40. Io sono testimone del fatto che lì la legge 40 non l'hanno mica scritta i monsignori di Curia, lì c'è stata una specie di asta al rialzo tra gli schieramenti politici italiani, ciascuno per accontentare meglio dal suo punto di vista le gerarchie cattoliche, con il risultato che io stesso, parlando con vertici della CEI, mi dissero riservatamente: ma secondo lei noi avremmo scritto quei limiti ai tre ovuli inseminati, eccetera eccetera? No, e la politica si è messa a fare una gara e noi a quel punto assistiamo adesso in questi ultimi anni il confronto senza esclusione di colpi tra la segreteria di Stato, la CEI, Bagnasco, Bertone, cose come la lettera del nunzio apostolico ex vice segretario del governatorato Monsignor Viganò da Washington, questa nota durissima della Santa Sede di domenica, sono tutte cose che io riesco a leggere molto meno. Ci deve essere sicuramente una lotta senza esclusione di colpi tra cose che però non mi appaiono chiare. Ecco, riprendiamo pochi secondi prima di abbassare di nuovo coi d'orso. Ambasciatore Romano, lei che cosa ha capito di questa vicenda delle lettere di signor Viganò da Washington, di questa replica durissima della Santa Sede? Come si legge in chiave italiana, in chiave di confronto interno alla Chiesa Curia e Chiesa italiana, questo scambio senza esclusione di colpi? Non lo so, non sono un vaticanista, avrei delle grosse difficoltà, non ho le chiavi di lettura necessarie. Mi è parso tuttavia che la Chiesa non voglia sciorinare panni sporchi in pubblico, questo non lo vuol fare. Può essere liberale, più o meno liberale, può essere governata da papi illuminati o da papi reazionari, ma sciorinare gli panni sporchi in pubblico non appartiene alla tradizione della Chiesa. Viganò stava rendendo pubblica un'indagine che stava dando evidentemente dei risultati non positivi, così per così dire, per la gestione e amministrazione della Chiesa. E la reazione è stata stroncante. Beh, da Romano, se dovessimo immaginare oggi i fermenti che ci sono nel mondo cattolico in giro per l'Europa, c'è qualcosa di paragonabile al nuovo catechismo olandese del 68, eccetera, eccetera? Oppure da questo punto di vista i fondamenti della Chiesa cattolica sono più solidi di quanto sembri? Cioè, oramai si è come un po' acquietata l'ondata di chi contestava nel post-concilio ecumenico e nel preconcilio? Ma credo che andando in giro per l'Europa ho notato una cosa, che tutti in Europa, in tutti i paesi, ci sono enormi interrogativi su il futuro della tecnologia e su quanto il progresso scientifico permette di cambiare il modo di procreare, di morire e di nascere. Nessun paese non si pone problemi, tutti quanti hanno dei dubbi sui risvolti etici e morali di queste nuove tecnologie, quindi non vorrei che si pensasse che i paesi non siano attraversati da interrogativi. Certo. Assolutamente, e ci sono enormi dibattiti in vari paesi, anche in paesi più progressisti come la Gran Bretagna o la Danimarca. Allora la devo informare, purtroppo il tempo è tiranno, oggi finiamo a 54:30. La Chiesa contro, Longanesi, Sergio Romano, Beda Romano. Io laico sono, anche se penso che un crocifisso nelle aule troppo fastidio non mi dà, ma capisco i simboli, le leggi, quello sì. A domani intanto, e grazie a Romano padre figlio. 9 in punto, la versione di Oscar.